Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail, come di consueto, vivavoce@radio24.it. Qualcuno ironizzando sulla sindrome da tornelli che sembra dilagare ha detto che il tornello numero uno, il tornello quello con la T maiuscola, dovrebbe essere messo in Parlamento. L'ultimo appello del presidente della Camera Fini sul tema, diciamo, produttività dei nostri parlamentari è stato il 3 ottobre. Auspico, ha detto Fini, che tempi e ritmi di lavoro in Parlamento siano un po' più in sintonia con quelli della società reale. L'altro ieri, lunedì, Camera convocata, è lunedì, giorno difficile per tutti, iniziare a lavorare, parlamentari intervenuti nella giornata 26. Altri numeri: a settembre la Camera ha avuto 9 giorni di dibattito con votazione, 9. A ottobre 15 sedute per ora, soprattutto però ci sono state le sedute per eleggere il giudice 15° della Corte Costituzionale. Numeri che fanno tornare in mente un termine che un anno fa era sulla bocca di tutti, sembrava travolgere come un uragano un'intera classe politica: la casta. Già, che fine ha fatto la casta per eccellenza, quella almeno per gli italiani per eccellenza, quella dei politici? C'è ancora? Io ho un libro qui davanti a me, uscirà domani, edito da Ponte alle Grazie, sono 208 pagine per 14 euro. Il titolo è "Perché sono uscito dalla casta". L'autore è Willer Bordon, che saluto. Buongiorno Bordon, benvenuto. Buongiorno a voi. Willer Bordon, più volte parlamentare, per 20 anni è stato ministro. Il 16 gennaio scorso, giorno del suo compleanno, ha deciso di farsi questo regalo, come ha detto di compleanno, dimettersi dal Senato, che poi, vabbè, sappiamo, venne tutto travolto, insomma, caddero le camere, cadde il governo. Saluto anche Sergio Rizzo del Corriere della Sera, uno che la casta l'ha descritta bene, con Gian Antonio Stella. Buongiorno e ben ritrovato, Sergio. Buongiorno a tutti. Tra l'altro uscirà tra un paio di settimane una nuova edizione con un'integrazione per capire, ma insomma, di questa casta di cui tanto si è parlato, che fine ha fatto, che ne è oggi. Voglio salutare anche l'onorevole Enrico Costa del Popolo della Libertà. Posso dire, onorevole Costa, uno che in qualche modo la lotta alla casta ce l'ha nel DNA, suo padre Raffaele, ex ministro, si è sempre battuto, era quello che andava a controllare anche se i dipendenti lavoravano o meno. Buongiorno, sì, buongiorno onorevole Costa. 800 24 00 24, che fine ha fatto la casta? Dicevamo lunedì 26 deputati intervenuti nella seduta dell'altro ieri. Tra l'altro si parlava di un tema importante, la nuova legge elettorale per le europee. Poche aula deserta, tanto che l'onorevole Lino Duilio del Partito Democratico si è espresso così. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e se posso dire anche cittadini che ascoltano, magari c'è qualcuno che è in ascolto in giro per l'Italia, cittadini che magari ascoltano e che, non potendo vedere, possono beneficiare di una descrizione plastica di questa situazione in cui ci troviamo, cioè in un'aula deserta in cui ci sono 5-6 deputati, non c'è il ministro competente che segue la nostra discussione. Questa situazione plastica direi che è un po' un segno dei tempi, di un decadimento progressivo della nostra democrazia, un deperimento qualitativo all'interno del quale la condizione del cittadino si pone come sempre più irrilevante ai fini delle scelte dei rappresentanti del popolo. E allora, onorevole Costa, che dice, un bel tornellone al Parlamento lo vedrebbe bene? Ma effettivamente, guarda, io vedrei bene un bel dimagrimento del Parlamento, una bella dieta in termini numerici dei parlamentari. Oggi abbiamo un bicameralismo perfetto, ma la perfezione da noi significa che le due Camere devono fare la stessa cosa, e quindi abbiamo quasi 1000 parlamentari che devo dire sono troppi in rapporto agli altri paesi e troppi in rapporto ai compiti che devono assumere. Anzi, secondo me la cosa crea anche una certa confusione e inutilità. 5-6 deputati, però, quando faceva questa descrizione plastica, non è una bella immagine. Voglio dire, del dimagrimento se ne parla da anni, se ne parlerà, però per il momento non c'è questo dimagrimento, almeno nel momento in cui rimangono circa 1000 deputati, tra deputati onorevoli e senatori, che vadano a lavorare, nel senso che si presentino a tutte le sedute, e invece certo, non è così. C'è una prassi, un'abitudine secondo me sbagliata. Tremenda anch'io, perché poi chiaramente entrati in questo meccanismo tutti quanti veniamo assorbiti da quelle che sono le abitudini. In sostanza, quando c'è il dibattito generale, quindi la discussione che precede l'analisi degli emendamenti di un testo, partecipano a questo dibattito generale normalmente soltanto coloro che appartengono alla commissione direttamente impegnata su quel testo che si sta affrontando. Questo è sbagliato, faccio ammenda anch'io, però questa è diciamo la ragione per cui c'erano soltanto 5-6 deputati nella giornata di lunedì su un tema peraltro molto importante come la legge elettorale. Cioè lei dice ci si adegua un po' alle abitudini di tutti, è così, e dunque purtroppo è una cattiva abitudine, ma tutti la prendono. Bisogna sicuramente intervenire, e questa secondo me è l'occasione per una presa di coscienza collettiva. Allora, Villar-Bordon, come detto, ha scritto questo libro che esce domani, Perché sono uscito dalla casta. Il 16 gennaio, suo compleanno, si è dimesso dal Parlamento, un gesto inedito. Bordon, lei se lo chiede nel libro, la casta esiste? E dopo aver avuto per anni tanti dubbi ha una risposta decisa sul fatto se esista o no. Esiste la casta? Soprattutto la casta politica? Ma esistono varie caste, sa, io ho addirittura preso, nel libro ne do conto, il vocabolario. Pronto? Sì, sì, è in diretta. No, perché sento evidentemente c'è qualche interferenza. E il vocabolario dice casta, che fra l'altro, beffa del destino, come si sa, deriva dal latino castum, ovvero puro, sembra una beffa. Ma il dizionario italiano ne dà questa definizione: categoria sociale o professionale che si mantiene chiusa e compatta nella difesa dei propri interessi e privilegi. Direi che basterebbe questa definizione per capire che di casse in Italia ce ne sono tante. Ovviamente quella che lei giustamente ha detto, io ne ho provato e toccato, come dire, sulla pelle questa condizione, che risulta più odiosa è sicuramente quella così definita sbrigativamente dei politici. Perché? Ma da una parte perché da tempo la condizione del ceto politico italiano è una condizione assolutamente abnorme di autoreferenzialità. Abbiamo fra l'altro, come noto, un Parlamento sostanzialmente nominato, e vedo che si sta portando avanti, a proposito di cattive abitudini che si propagano, la stessa cattiva abitudine anche per il Parlamento europeo. Sì. In secondo luogo, altro elemento gravissimo, c'è una totale condizione di inamovibilità. Dopodiché, vede, io lo dico anche proprio in riferimento al libro molto bello di Rizzo e Stella. In quel libro vi è un dettaglio, direi, estremamente completo di tutte le condizioni che vengono definite di privilegio, ma io dico che probabilmente l'elemento che rende più odiosa questa condizione è l'incrocio fra il privilegio e la sensazione dell'inefficienza. Ma guardi, ma quella di non essere il lunedì presente. Di qualche privilegio, poi, siccome lei li cita nel libro, sì, qualcuno gli richiede. Non è soltanto non essere il lunedì presenti, anzi. Devo dire che negli ultimi anni è già una sorpresa che ci sia stata una seduta di lunedì, perché negli ultimi anni. Sì, in genere dal martedì al giovedì. Si figuri, qualche volta dal martedì pomeriggio al giovedì mattina, già giovedì mattina il Senato era quasi deserto. Deserto. Senta, lei usa questa espressione nel libro, dice i politici si sono mitridatizzati. Allora, Mitridate era quel re che, prevedendo la possibilità di un avvelenamento, cosa faceva? Ogni giorno prendeva una dose di veleno, così diventò immune al veleno. Perché mitridatizzati i politici? In che senso? Perché appunto non si rendono conto che con questi atteggiamenti continuano a prendere sostanzialmente piccole dosi di veleno, rendendosi sempre meno sensibili a quella che è la realtà esterna. Io quante volte l'ho detto anche scherzando ai miei colleghi, ma se ogni tanto invece andare a prendere il caffè alla buvetta andassimo al bar qua di sotto, probabilmente servirebbe molto di più di 1000 sondaggi. Questa condizione ti porta a non avere più semplicemente la percezione, io porto lei sa anche alcuni esempi di questi, uno dei quali fu quello dell'ultimo aumento dell'indennità dei parlamentari, che fu limitata al 10%, sì. Questa è una cosa che troverete sia nel libro con il dettaglio di Rizzo e Stella, sia nel mio, e vi fu una sorta di rivolta per questo taglio del 10%, che era complessivamente considerata quella che è l'indennità di un parlamentare, che se lavora sarebbe perfino un'indennità, come dire, adeguata ad una responsabilità di dirigente, ma che se viene invece semplicemente nominato e l'attività parlamentare diventa la seconda o terza attività, che è qualcosa che giustamente suscita indignazione nella popolazione, beh, questo taglio, che era un taglio che poi alla fine si rivelò di pochi euro, suscitò una vera e propria, come dire, sollevazione nel Parlamento, a dimostrazione che evidentemente si erano perse le antenne di comprensione di quello che avveniva fuori. Sì, ricordo però che poi, come dire, questo comporta una cosa che Mitridate, poi appunto non riuscendo ad un certo punto, quando fu sconfitto, fu un grande re, un grande combattente anche di Roma, ma alla fine venne sconfitto, per, come dire, potersi uccidere dovete chiedere ad uno schiavo di ammazzarlo perché non era più capace di uccidere. Sì, di essere pugnalato, perché voglio dire, era certo, quindi, come dire, un sistema di questo tipo alla fine comporta che devi chiedere a qualcuno di farti fuori, il che sarebbe piuttosto drammatico. Le chiedo, l'onorevole Costa dice, insomma, entrando poi qui ci sono un po' le abitudini che si prendo. Prendo allora un'altra immagine che lei ha usato abbastanza efficace nel suo libro, quella della pista da bob. Quando uno entra in una pista da bob, l'avete, per quanti sforzi uno faccia, insomma, è talmente liscia, ripida e ghiacciata che non si riesce a uscire. Questo per dire, insomma, che lei all'interno della casta ci ha vissuto per 20 anni, e quando è in quella pista da bob, insomma, si scende, è inutile cercare di fare tanti sforzi, e si fa parte di quella pista. Ma non c'è dubbio, è il motivo per cui ho compiuto questo gesto, quello delle dimissioni, e l'ho fatto fra l'altro in tempi non sospetti, dopodiché è avvenuto tutto il resto, e fra l'altro in una condizione in cui, almeno per quanto mi riguardava, ero ancora uno dei principali dirigenti politici del mio partito, e quindi in qualche modo fra l'altro della maggioranza, quindi non l'ho fatto in una condizione, come dire, già di messa in disparte, ma l'ho fatto perché mi rendevo conto che non era possibile essere credibili, cioè io ci tengo la mia credibilità. Dico una cosa, tra l'altro l'ho detta nella lettera che ho mandato a Marini, con la quale davo le dimissioni: oggi per poter fare politica occorre uscire dalla politica. È una frase a effetto, ovviamente, ma il significato è molto chiaro. Oggi per essere credibili, per ritornare ad essere credibili, purtroppo bisogna uscire dalla pista di bob, perché nella pista di bob uno può fare qualsiasi cosa, al massimo si ribalta ma scende costantemente. Sergio Rizzo, come detto, coautore della casta con Gian Antonio Stella, ne uscirà una edizione con il supplemento, insomma, anticipaci qualcosa, Sergio, a dire, è cambiato qualcosa, questa casta c'è? Dopo la denuncia clamorosa di un anno e mezzo fa circa. Ma diciamo, nella sostanza, è quello che dice Bordone, insomma, perché è assolutamente le sue parole sono la fotografia della situazione, e quello che sta accadendo oggi con il fatto che in Parlamento appunto non ci va più nessuno, è la dimostrazione che ormai c'è uno scollamento tra la società civile e il palazzo che è impressionante. I costi continuano ad aumentare, questa è la notizia, cioè che passata la piena si è fatto finta di niente, naturalmente, dopodiché si ricomincia ad aumentare le spese. Basta dare un'occhiata alle tabelle della finanziaria per rendersi conto che gli organi costituzionali continuano a macinare quattrini, una quantità impressionante. Ora, il fatto che giustamente si metta mano ad alcuni capitoli dove gli sprechi naturalmente non mancano, penso all'università, penso anche alla scuola se vogliamo, però forse sarebbe più giusto anche da un punto di vista, come dire, di simbolico, no? Nei confronti della gente, dell'opinione pubblica, mettere mano a certe voci che sono francamente scandalose. Ora io penso che 3 miliardi e mezzo di euro per gli organi costituzionali è equivalente in qualche modo, io penso che quella somma lì, se si riducesse di un terzo, nessuno se ne accorgerebbe. Soprattutto nessuno se ne accorgerebbe se venissero soppresse alcune funzioni che francamente sono del tutto prive per di esempio? Ma per esempio il CNEL mi sembra che sia arrivato a un punto per cui non ha nessun senso ormai più, è diventato un parcheggio per ex sindacalisti o per politici che non hanno più una collocazione diciamo no, nella politica attiva, diciamo così, no? E quindi già quello soltanto porterebbe un risparmio, non dico decisivo, però certamente consistente. Penso alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La presidenza del Consiglio dei Ministri è diventata una macchinetta trita soldi. Basta vedere quanta gente è impiegata in scorte, in diciamo attività di come dire, autisti, di custodia di questo tipo. Io l'altro giorno parlavo con un commissario di polizia, il quale sconcertando mi diceva: lei non sa, cioè noi qui siamo come Don Chisciotte con i mulini a vento, poi ogni tanto qualche collega sparisce e scopriamo che è andato a fare servizi, diciamo, non di ordine pubblico ma di privati. Fammi tornare un attimo, io vorrei tornare per un attimo dall'onorevole Costa, anche perché ci deve lasciare per i lavori parlamentari. Onorevole Costa, senta, oggi sulla stampa ritorna insomma un po' questa tematica sulla produttività del Parlamento. 41 i decreti e le proposte del governo nell'ultima, questa legislatura in corso, su 42. Cioè il Parlamento ha fatto una sola iniziativa parlamentare andata a segno per istituire la Commissione Antimafia. Tabacci, che un onorevole ha detto, gli onorevoli dai sono polli di batteria, non contano nulla, c'è una legge dove sappiamo non li scegliamo neanche, insomma, ma lei dice una dieta dimagrante, ma qualcuno dice ma Parlamento così a cosa serve sinceramente? Effettivamente, guardi, è una considerazione che io ho fatto nella scorsa legislatura e avevo scritto anche una lettera al presidente Bertinotti sollevando questo problema. Dico, noi in Parlamento avevo fatto il calcolo di numero di votazioni che avevamo fatto su provvedimenti del governo e il numero di votazioni che avevamo fatto su provvedimenti di iniziativa parlamentare. Il risultato era davvero sconcertante perché si evidenziava che nel 90% delle votazioni noi votavamo su iniziative del governo. Quindi l'iniziativa del parlamentare, quindi la cosiddetta proposta di legge prevista dalla Costituzione, era assolutamente annullata. Noi andiamo a vedere gli archivi, abbiamo più di 3.000 proposte di legge su tutto, qualsiasi materia, e veramente questo ci fa cadere molte volte nel ridicolo. Poi però quando si tratta di tradurre, quantomeno quelle meritevoli di traduzione in realtà, noi ci troviamo di fronte a un muro, una barriera che è l'attività del governo che passa davanti a tutto, e vedo che in questa legislatura le cose non sono affatto cambiate, passa davanti a tutto l'emergenza, molto spesso l'abbinamento decreto legge fiducia, che veramente mortifica il Parlamento, perché il decreto legge è un'iniziativa legislativa immediatamente efficace dura 60 giorni, viene convertita tante volte attraverso il voto di fiducia. Sì. Quindi questo diciamo toglie ogni ambito di discussione, toglie anche l'utilità, insomma, dei parlamentari. Voglio solo fare anche una considerazione di difesa, perché io sono uno di quei parlamentari che partecipa molto al lavoro delle commissioni, e il lavoro delle commissioni molto spesso è un lavoro sotterraneo, un lavoro che non emerge all'esterno. Ecco, ci sono tanti colleghi che quotidianamente sono presenti in commissione, partecipano, studiano i provvedimenti, poi magari in aula o per scelte dei loro partiti o magari anche perché non ritengono di dover appesantire i lavori d'aula, non intervengono. Però hanno fatto un lavoro silenzioso ed un lavoro sicuramente utile. Guardi, sulle commissioni c'è anche qui un capitolo del libro di Viller-Bordon. Prima però il primo ascoltatore all'800 24 0024, Vittorio da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Milan. Senta, niente, grazie per avermi chiamato. Intanto volevo chiedere al signor Rizzo quanti miliardi si risparmierebbero da destinare alla scuola pubblica, intanto, togliendo un po' di fannulloni dal Parlamento. E poi non ho sentito il ministro Brunetta, devo dire la verità, in questo frangente. Su questo tema? Diciamo, no, guardi, in realtà sulla questa le rispondo io. Brunetta ha detto più volte, e ha ragione su questo, la questione del Parlamento non dipende dal governo. Voglio dire, nel Parlamento c'è questa autodichia, che è un termine... così, glielo dico così, insomma una forma di autogoverno, insomma il Parlamento è indipendente, non dipende da, proprio per l'importanza di quel luogo, di quel simbolo e delle funzioni che ha rispetto al governo, dunque non è che Brunetta può intervenire, però l'ha detto, è vero, ci sono dei fannulloni, devono intervenire i presidenti di Camera e Senato. La seconda parte di Viva Voce alle 9:34 minuti, dove è finita la casta, con siamo con Willer Bordon, che ha scritto questo libro, uscirà domani, Perché sono uscito dalla casta, con Sergio Rizzo del Corriere della Sera, e saluto l'onorevole Lino Duilio del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto, onorevole. Buongiorno. Le dico che la sua descrizione plastica dei 5 o 6 deputati l'abbiamo fatta ascoltare in apertura della seduta della Camera, in apertura di trasmissione, era bella così, quella descrizione plastica dell'aula deserta. Allora, io prima di andare da Sergio Rizzo, che deve una risposta all'ascoltatore, vorrei, Willer Bordon, ci racconta, allora, 1987, credo di ricordare, letto nel libro, lei è deputato per la prima volta, entra alla CIT, questa agenzia che si occupa dei viaggi di tutti i parlamentari. Allora, prima cosa che le fanno, le danno, per parlare di privilegi, il numero di un mitico comandante dell'Alitalia per sbloccare le liste d'attesa. Che vuol dire? Ma che c'era un numero riservato che avevamo solo noi parlamentari, almeno così ci dicevano, a cui rispondeva, è da molto tempo che questo non succede più. Sì, no, ma voglio sperare, con i tempi dell'Alitalia, sì, soprattutto, no? Ecco, voglio dire. È difficile ritrovare l'Alitalia, ma diciamo che allora tutto andava per la migliore per quanto riguarda l'azienda di bandiera, e quindi qualche volta c'erano le liste d'attesa, si telefonava a questo comandante e normalmente ti sbloccava e ti trovava il posto. Vabbè. Ma diciamo, se fosse tutto questo, questo era, come dire, come al solito si ride per non piangere. Voglio dire, poi lei scoprì anche lì dal funzionario della CIT che c'era a disposizione dei fondi per fare dei cosiddetti viaggi di studio, che poi erano delle vacanze. Ma a dire la verità, poi vennero definiti viaggi di studio e come dire, senza che ci fosse un adeguato ed effettivo controllo che a questo corrispondessero, ma per molti anni, io non so quanti prima di me, sicuramente molti dopo di me, funzionava un altro sistema che io descrivo nel libro, appunto. Io andai per farmi la prenotazione per ritornare nella mia città di allora, la mia città di provenienza, Trieste, anche se adesso ormai da molti anni abito a Roma, e mi sentii chiamare dal quello che poi capì, era il direttore dell'agenzia, il quale mi disse: buongiorno onorevole Bordon, lei passa qui dietro con me che le spiego come funzionano le cose. Io andai lì e lui mi spiegò che avrei dovuto fare staccare un biglietto per Reykjavik. La capitale dell'Islanda. E lei ingenuo disse: la mia sorpresa, gli dissi: scusi, ma io non ho nessuna intenzione di andare a Reykjavik. E lui mi dice: no, ma guardi, ma che questo serve come una sorta di assegno circolare. Lei fa il biglietto per Reykjavik, poi ce lo consegna, e sulla base del fondo che così lei ha creato con questo biglietto aperto, poi lei può fare anche con sua moglie tutti i pacchetti turistici che vuole. Cioè, quello è il massimale della spesa. Ero molto sorpreso, perché non riuscivo a capire come la cosa potesse funzionare. Diciamo, la mia ascendenza in parte asburgica mi davvero creava più di qualche situazione di surrealità, più che di imbarazzo. Sì. E quindi continuai a chiedergli anche perché poi Reykjavik. E lui mi dice: perché è il punto più lontano, visto che la Camera rimborsa per viaggi di studio biglietti che siano fatti in ambito europeo, ormai abbiamo deciso di farli tutti per per Reykjavik, che è il punto più lontano, poi lei non si preoccupi, lo dia a me e poi lei faccia i viaggi dove vuole. Sì, sostanzialmente ci fu una invasione di parlamentari italiani a Reykjavik, che finta ovviamente. Più, vede, non fu tanto questo, come dire, che ci siano i furbetti, lo sappiamo, del quartierino, del quartierone, eccetera, eccetera. La cosa che mi colpì, ed ecco l'elemento che si ricollega, diciamo, al giudizio complessivo, al giudizio della perdita di sensibilità, purtroppo già allora, quando era un Parlamento assolutamente diverso da questo, di gran lunga più efficiente e anche con parlamentari di gran lunga più rappresentativi. Lo dico io che ho combattuto per il rinnovamento e il cambiamento, quindi sì, non voglio passare per nostalgico, ma questa è la realtà. Ebbene, già allora però c'era questa brutta abitudine, perché la cosa che mi colpì nella descrizione del direttore è che di fronte alle mie obiezioni lui mi disse: ma guardi che lo fanno tutti, è noto. Purtroppo era così. Era così. Un ascoltatore, Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Milan, chiaramente anche ai suoi ospiti. Due riflessioni, li ascolterò volentieri per radio. La prima, il bicameralismo perfetto e un così alto numero dei rappresentanti ha chiaramente una sua ragione storica. Si usciva da un periodo di dittatura e quindi ci si voleva cautelare, insomma. Quindi non è poi così assurdo. Il problema è che sarei d'accordissimo a ridiscutere sulla perfezione e quindi tradurre delle modifiche affinché le Camere si occupino di cose diverse, però il problema è un altro: se noi ne abbiamo 1000 o ne abbiamo 100, volendoli anche ridurre, ma quei 100 non rispondono ai cittadini che li hanno eletti, anche perché i cittadini danno la loro delega al partito, bensì vengono nominati dai partiti, sì. A che serve? Cioè non credo. No, ma infatti il problema è sempre questo. Io la ringrazio. Sergio Rizzo, Sergio, vuoi rispondere all'ascoltatore? Insomma, diceva, togliendo dai costi quanto si potrebbe dare alla scuola, visto che è il tema del giorno. Ecco. Io volevo fare una piccolissima aggiunta sulla CIT. Non è un caso che la CIT abbia chiuso in tutta la sua lunga storia soltanto un bilancio inattivo. E non è neanche forse un caso che questo bilancio sia stato chiuso in attivo grazie a delle dismissioni patrimoniali e non grazie a un'attività economica, a risultati economici, diciamo così. Ultima cosa, forse gli ascoltatori non sanno che la CIT è tornata in Parlamento, nel senso che chi l'ha comprata dopo è diventato parlamentare, quindi diciamo, c'è anche questo aspetto così, diciamo, simpatico. I costi, io l'ho detto prima, secondo me se pensassimo di tagliare del 30%, sì, un terzo, le spese per gli organi costituzionali, noi non ce ne accorgeremo. Che è detto che sono 3 miliardi e mezzo. Quindi un miliardo e rotti, un miliardo e rotto, sono tanti. Guardate che è una spesa ancora superiore a quella degli altri paesi europei. C'è stato uno studio abbastanza divertente della Camera dei Deputati, dopo che scoppiò il caso dei costi della politica, sì, in cui vennero paragonati tutte le spese dei vari parlamenti europei, e saltò fuori ovviamente che l'Italia aveva il Parlamento più caro di tutti, addirittura il doppio rispetto alla Germania e forse quasi 3 volte rispetto alla Gran Bretagna. Parlo di costo pro capite, naturalmente, considerando tra l'altro che noi abbiamo un numero di parlamentari molto più alti, quindi immaginiamoci. La cosa divertente fu, e qui veniamo all'onorevole Duilio, no? Quello che diceva lui, sì, in aula, e la cosa divertente è che in questo studio, per giustificare il fatto che comunque sia il Parlamento italiano aveva degli aspetti di eccellenza, venne fatto il calcolo di quanto costava una legge, no? E diciamo, si saltò fuori che le leggi nel Parlamento italiano produce le leggi a minor costo d'Europa, no? E, diciamo, aspetto paradossale, perché intanto uno dei difetti del sistema istituzionale italiano si è sempre detto che è l'altissimo numero delle leggi, ma poi non veniva spiegato che cosa sono queste leggi. In realtà, se uno va a scorrere l'elenco delle leggi approvate dal Parlamento, si rende conto che la stragrande maggioranza sono ratifiche di trattati internazionali. Quindi sono, come dire, degli, sì, atti dovuti. Sì, delle firme. Esatto. Ma prima di andare da Duilio, chi è il parlamentare della CIT? Questa è una mia ignoranza. Il titolare del gruppo Soglia, si chiama Gerardo Soglia. Ah, perfetto. Che è il, appunto, il gruppo che ha rilevato quello che rimaneva della CIT, sì, perché poi la CIT, sappiamo, è stata smembrata. Sì, sì, sì, chiaro. Onorevole Duilio, la sua descrizione plastica dell'aula, appunto, l'abbiamo fatta sentire. Che effetto, ma il Parlamento così come serve ancora? Ma guardi, il Parlamento secondo me è come la salute, in genere la si apprezza quando non la si ha, se posso dire così. È chiaro che noi abbiamo molti problemi, abbiamo un'istituzione che andrebbe riformata sia per quanto riguarda il numero dei parlamentari, sia per quanto riguarda i regolamenti, le procedure. Ci sono molte cose che andrebbero cambiate. Io sono 12 anni che sono in Parlamento, le devo dire che mi stupisco anch'io del fatto che alcune cose che sembrano ovvie non si riesca a cambiarle. E spero molto che aumenti la pressione dell'opinione pubblica, la discussione pubblica, lo dico al dottor Rizzo, con un piccolo particolare però, e cioè di fare lo sforzo in qualche modo, secondo me questo è di fondamentale importanza, di distinguere un po', cioè di sferzare il potere e metterne a nudo quelli che sono i privilegi e metterne a nudo quelle che sono anche la tracotanza e le cose assolutamente ingiuste, però nello stesso tempo di esaltare anche un poco di past construence, sia evidenziando alcune esperienze che magari esistono e bisogna andarle a cercare, che sono positive anche in Parlamento, insomma, e sia suggerendo il modo di uscirne, perché se noi non costruiamo, insomma, questo approccio che mette insieme la past destruence, se così posso dire, la past construence, otterremo un unico risultato, e cioè di devastare sostanzialmente l'istituzione parlamentare. Se perderemo le istituzioni, credo che ci perderemo anche noi. Cioè, lei dice, bisogna costruire, lo dico a beneficio del collega Bordone. Intanto io preferisco, mi si consenta la punzecchiatura un po' polemica, che i libri si scrivano quando si è dentro e si gode di alcuni privilegi e non quando si è. Ma questa prima infatti cosa. È l'ultima seconda parte. Seconda cosa, siccome lui ha affermato che tutti facevano così, non è vero che tutti facevano così. Io posso assicurare, sono 12 anni in Parlamento e nessuno mai mi ha telefonato per andare a Reykjavik o altrove. Quindi non facciamo sempre di ogni erba un fascio, perché con tutte succedeva, credo, nel poi diventa devastante. Succedeva, credo, nel 1987. Un ascoltatore, Ugo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. E un saluto a tutti voi della trasmissione. E naturalmente, ascoltando prima la radio, stavo sentendo il senatore Bordone, mi sembra. Sì, no? È ex senatore. Il titolo del suo libro è Perché sono uscito dalla casta, è fuori. E naturalmente devo confermare quando lui ha detto riguardo i biglietti all'Italia e prenotazioni all'Italia che venivano messe in lista d'attesa. Cioè, si facevano sbloccare le liste d'attesa i politici. Io stavo all'ufficio operativo piloti e un giorno mi è arrivata una telefonata dal grande Giorgio Benvenuti, no? Va bene. Guardi, io devo andare a Bologna e non ho posto, come si fa? Lei fa il nome, io la prendo per fede, voglio dire, però Benvenuti, com'è? Vabbè. No, glielo dico perché è vero, altrimenti non dico. Vabbè, me lo dice lei. Vabbè, comunque, insomma, c'è questa pratica. Sono sincero. No, tra l'altro, arriva anche una mail che ci dice, da un'ascoltatrice che ci dice: buongiorno, ho lavorato per molti anni in un business travel center. Questa procedura di sblocco liste si effettua regolarmente anche per molti top client di aziende private, creando disagi ai passeggeri comuni. Bordone, abbiamo avuto la conferma da una persona che ha lavorato all'ufficio piloti di Alitalia, però molti ascoltatori dicono, e anche l'onorevole Duilio, comodo denunciare oggi. Per esempio, lei quel biglietto per l'Islanda poi lo prese, cioè quel fittizio biglietto, no? Sì, l'ho preso, lo dico anche nel libro, sì. Perché così come ho spiegato lì, facevano tutti, e soprattutto perché allora ero ancora convinto, come vedo in parte ancora convinto Duilio, che, come dire, bisogna stare attenti a denunciare troppe cose perché si rischia di legittimare le istituzioni. Io oggi sono convinto invece che il medico pietoso finisce per mandare in cancro il malato e che quindi bisogna essere totalmente impietosi. Ricordo anche, Duilio, che quella vicenda si concluse quando invece uno di quelli che io scherzosamente definisco i nuovi barbari, e cioè coloro che vengono fuori dal palazzo, allora i parlamentari della Lega, invece con meno scrupoli di me denunciò, secondo me, virtuosamente la situazione fu cancellata dopo un po' di polemica anche sui giornali di allora. Da allora però andò avanti un'altra cattiva abitudine, di cui hanno usufruito sicuramente molti colleghi anche per molti anni dopo, e cioè i cosiddetti viaggi di studio. che giunsero fino a 4.000 euro per parlamentare. Ora, i viaggi di studio vanno benissimo, il problema è che si dovrebbe, se si vuole dare 4.000 euro per viaggi di studio ad un parlamentare, bisognerebbe poi pretendere che porti le pezze d'appoggio dell'effettivo svolgimento del viaggio per motivi di studio e soprattutto che non si faccia accompagnare, che questo non serva anche per pagare le spese della moglie, dell'amante, dei figli, come purtroppo è avvenuto per tra l'altro anni. Io voglio ricordare un'ultima cosa, mi permetta. Io il libro l'ho scritto da dentro, non da fuori. Il libro parte, come lei sa, proprio con la lettera che io ho scritto il 16 gennaio del corrente anno in Parlamento funzionante, che fra l'altro annunciai 2 mesi prima sia nella trasmissione di Crozza sia al Corriere della Sera, dicendo che mi sarei dimesso esattamente il 16. Sì, tra l'altro è una chiamata. I privilegi quando i privilegi c'erano. Quella è facile farlo dopo. Quella lettera è una chiamata, la chiamata in correità. Lei cita tra l'altro chi? Fini, Rutelli, Veltroni, Casini. Ne ho dimenticato. E D'Alema. Sì, cito i cosiddetti cinquantenni. I cinquantenni. Li cito per un motivo semplice. Fra l'altro sono quasi tutti ormai prossimi ai 60 anni, come chi parla, sono più o meno la mia stessa generazione. E li cito per un motivo molto semplice, perché credo che in Italia ci sia una questione di tappo vero e proprio. La casta nasce anche da questo. Noi abbiamo lo stesso gruppo dirigente nei partiti e quindi a livello delle istituzioni da oltre 20 anni. Siamo normalmente al di là dell'età in sé, voglio dire, ma stiamo diventando probabilmente una vera e propria gerontocrazia da ogni punto di vista. Superiamo anche la Cina negli ultimi tempi. Quindi questo elemento e questa citazione nasce da questa constatazione di coloro, voi come me, voi di più di me, siete da 20-25 anni, cosa insolita, fra l'altro introvabile in qualsiasi sistema occidentale, ai vertici dei vostri partiti e delle vostre istituzioni. Al di là della vostra credibilità e anche delle vostre capacità, costituite inevitabilmente una sorta di tappo a ricambio generazionale e anche di genere. Tra l'altro io voglio ricordare, poi nel libro ci sono capitoli sui finanziamenti ai partiti, sui cosiddetti pianisti, vi abbiamo dedicato una trasmissione, su tutta la questione dei dipendenti, oggi c'è anche un'anticipazione su Libero del libro su questo, la stabilizzazione dei dipendenti di Camera e Senato, incredibile, io leggo le retribuzioni mensili, per esempio un assistente da 1.535 euro, prima assunzione, parlo del netto, fino a 5.222 euro al 36esimo anno, alla fine carriera, un assistente al Senato, il coadiutore parte da 1.824, arriva a oltre 6.000 euro, poi il segretario, lo stenografo parte da 2.520 e chiude la carriera a 9.000 euro netti al mese, il consigliere del Senato, dei senatori, da 3.000 euro netti alla prima assunzione al 36esimo anno di lavoro, 12.871 euro netti. Nicola dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Buongiorno, visto che ha citato alla fine i consiglieri al Senato, volevo portare la mia esperienza da consigliere comunale. Non sì, è cosa, che ma... non prenderà lo stesso, prenderà un bel gettone, non lo so. Da un gettone fantastico, pari a circa 24 euro lordi, al consiglio comunale viene convocato una volta al mese e a commissione, che ce n'è una relativa ad ogni consiglio, quindi sono circa 45 euro più o meno al mese. Però non è il nostro lavoro. Il problema è questo, secondo me. Io mi autodefinisco come l'anti-HIV della politica, nel senso, il ruolo del consigliere comunale è un po' come l'antidoto per riuscire a debellare questo virus che è incancrenato all'interno del sistema politico, di questi politici professionisti che lo fanno da 30, 25, 20 anni. Cioè, siamo un po' quelle persone che lo fanno per puro spirito di amore nei confronti del paese dove vivono, e ci riscontriamo, ci andiamo a rapportare e forse veniamo anche presi, come citava prima giustamente lei, l'esempio di non fare tutta l'erba un fascio per quanto riguarda certe questioni, siamo rapportati ai nostri riferimenti nazionali. La distinzione è totalmente differente, per capacità naturalmente. No, no, ma è chiaro, però lei dice c'è uno... Anche per retribuzione. Cioè, no, no, infatti, io guardi Nicola, con lei devo finire, il tempo è finito e vi ringrazio. Ovviamente voglio ricordare nel ringraziare tutti il libro appunto che esce domani, chi se lo vuole leggere, poi ci sono anche episodi anche più succosi, qualcosa abbiamo detto, ma qualcosa troverete, perché sono uscito dalla casta, scritto da Willer Bordon, edito da Ponte alle Grazie. Da domani è in libreria, così come ringrazio Sergio Rizzo, che attendiamo la nuova edizione della casta aggiornata tra un paio di settimane. Grazie all'onorevole Lino Duilio, ci fermiamo qui in redazione, Alessandro Marco Tulli ed Elisabetta Fusconi, Giorgio Mattè in regia, e con viva voce ci ritroviamo domattina.